Capitolo 14. Nel corso dell'autunno del 1845 un nuovo interesse si era profilato sull'orizzonte delle Bronte, debole in verità e spesso perso di vista a causa della viva pena e della costante ansietà che premevano su di loro per via della condotta di Branwell. Nelle notizie biografiche sulle sorelle, scritte da Charlotte nella prefazione a Cime Tempestose e a Agnes Grey, pubblicate nel 1850, ella dice, in un brano unico, secondo me, in quanto a forza e a pathos: «Un giorno, nell'autunno del 1845, mi cadde sott'occhio per caso un manoscritto. Erano versi tracciati nella scrittura di mia sorella Emily. Naturalmente non fui sorpresa, visto che sapevo che poteva scrivere in poesia e che lo faceva. Lo sfogliai e fui afferrata da qualcosa che andava oltre la sorpresa. Era la profonda convinzione che non si trattasse di banali effusioni, ma di poesie totalmente diverse da quelle solitamente scritte dalle donne. Le giudicai dense e terse, vigorose, genuine. Inoltre, al mio orecchio suonavano con un'armonia peculiare, selvatica, malinconica ed elevata. Mia sorella Emily non aveva un carattere facile alle dimostrazioni, tanto che anche le persone che le erano più vicine e più care non potevano penetrare impunemente nei recessi della sua mente e dei suoi sentimenti senza averne il permesso. Mi ci vollero ore per riconciliarla con la scoperta da me fatta, e occorsero giorni per persuaderla che quelle poesie meritavano di essere pubblicate. Nel frattempo, la minore delle mie sorelle tirò fuori quietamente alcuni scritti suoi, dicendo che, visto che quelli di Emily mi avevano dato piacere, poteva darsi che desiderassi dare un'occhiata anche a questi altri. E potevo solamente essere un giudice parziale. Tuttavia pensai che anche quei versi erano improntati a un suave e sincero pathos tutto loro. Molto per tempo tutte noi avevamo accarezzato la speranza di diventare scrittrici un giorno o l'altro. Concordammo dunque di mettere insieme una piccola raccolta delle nostre poesie e, se possibile, di farle stampare. Contrarie a esporci personalmente, nascondemmo i nostri nomi sotto gli pseudonimi di Carrer, Ellis e Acton Bell. La scelta ambigua fu dettata da uno scrupolo ad assumere nomi inequivocabilmente maschili, pur non amando dichiarare il nostro sesso, poiché, anche se allora non sapevamo che il nostro modo di pensare e di scrivere era ben lontano da quello dichiarato femminile, tra virgolette, avevamo la vaga impressione che alle autrici si guardasse con pregiudizio. Avevamo notato che la critica usa per condannarle l'arma della personalità e per lodarle una lusinga che non è un vero apprezzamento. Il riuscire a far pubblicare il nostro libricino richiese una vera fatica. Come c'era da aspettarsi, né di noi né delle nostre poesie si sentiva il minimo bisogno, ma a questo ci eravamo preparate fin dal primo momento. Benché personalmente inesperte, avevamo letto il resoconto delle esperienze altrui. Il grande problema consisteva nella difficoltà di ottenere una qualsiasi risposta da parte degli editori ai quali ci rivolgevamo. Essendo ripetutamente incappate nella generale indifferenza, mi avventurai a rivolgermi ai signori Chambers di Edimburgo chiedendo loro consiglio. Loro probabilmente hanno dimenticato questa circostanza, ma io no, poiché ricevetti da loro una risposta breve ma cortese, piena di buon senso, in base alla quale agimmo e alla fine ci facemmo strada. Mi sono informata presso Mr. Robert Chambers e ho potuto constatare che, infatti, come Miss Bronte immaginava, egli aveva completamente dimenticato la richiesta fatta a lui e a suo fratello. Non avevano conservato alcuna copia o un qualche appunto di quella corrispondenza. A Haworth vive un uomo intelligente che mi ha dato alcuni particolari interessanti sulle sorelle, quali erano al tempo di cui sto parlando. Dice: «Ho conosciuto Miss Bronte semplicemente come Miss Bronte per lunghi anni, da quando la famiglia venne a vivere qui nel 1819, ma non ebbi veri e propri rapporti con loro fino al 1843, quando aprii la mia piccola impresa di cartoleria. Nessun genere di consumo in quel ramo si poteva acquistare sul posto prima che io aprissi il mio negozio. Bisognava andare a Keighley. Le Bronte erano solite comprare una grande quantità di carta da scrivere e mi chiedevo cosa mai potessero farne. Pensavo che scrivessero per delle riviste. Quando mi trovavo sprovvisto, temevo sempre di vederle comparire. Sembravano così desolate se non potevo rifornirle. Sono andato ripetutamente fino a Halifax, alla distanza di 10 miglia, per una mezza risma di carta, per tema di esserne a corto quando venivano. Non potevo comprarne di più in una sola volta per mancanza di capitale, ero sempre a corto di denaro. Mi piaceva tanto vederle comparire quando avevo di che servirle. Erano così miti e cortesi e talmente quiete. Non parlavano mai molto. Charlotte a volte si metteva a sedere e si informava delle nostre condizioni con tanta gentilezza e sentimento. Beh, anche se sono un povero lavoratore, il che non ho mai considerato essere una degradazione, potevo parlare con lei con la massima libertà. Mi sentivo sempre a mio agio, benché io non abbia mai ricevuto alcuna educazione scolastica. In sua compagnia non ne ho mai sentita la mancanza. Finalmente ebbero buona accoglienza per la pubblicazione delle poesie di Currer, Ellis e Acton Bell presso gli editori Aylott & Jones, siti all'indirizzo di Paternoster Row. Mr. Aylott ha gentilmente messo a mia disposizione le lettere che Charlotte gli scrisse in quella circostanza. La prima reca la data del 28 gennaio 1846. In essa Charlotte gli chiede se la sua casa editrice sarebbe disposta a pubblicare un volume di poesie in ottavo, se non a loro rischio, a spese dell'autore. È firmata Charlotte Bronte. La risposta deve essere stata assai sollecita, visto che il 31 gennaio ella scrive nuovamente: Signori, visto che siete disposti a pubblicare il lavoro di cui vi scrissi, desidererei essere informata al più presto su quanto verrebbe a costare la carta e la stampa. Dopodiché farò avere loro la rimessa insieme col manoscritto. Lo vorrei stampato con formato in ottavo e carta o caratteri simili a quelli dell'ultima edizione del volume di Wordsworth uscito a Moxon. Le nostre poesie richiederanno, a quanto ritengo, da 200 a 250 pagine. Non sono opera di un ecclesiastico e non sono tutte di carattere religioso, ma suppongo che questo non sia di alcuna importanza per lei. Sarà forse opportuno che lei esamini prima il manoscritto al fine di poter calcolare esattamente il costo della pubblicazione. Se lo crede opportuno, glielo invierò subito. Tuttavia, gradirei prima farmi un'idea circa il costo probabile, perciò, se potrà informarcene approssimativamente, gliene sarò grandemente obbligata. Nella lettera seguente, in data del 6 febbraio, sempre Charlotte scrive: Lei si renderà conto che le poesie sono di tre diverse persone, imparentate fra loro, ma i loro lavori sono contrassegnati dalle rispettive firme. Il 15 febbraio scrive nuovamente: Il manoscritto risulterà in un volume più sottile di quanto avevo previsto. Non so indicarle un altro modello di mio gusto in cui presentarlo. Penso che sarebbe preferibile un formato in dodicesimo e dei caratteri alquanto ridotti, purché chiari e non troppo piccoli, e carta di buona qualità. Il 21 febbraio sceglie i caratteri per le poesie e dice che invierà una rimessa di 30 sterline e 10 scellini di lì a pochi giorni. I particolari stipulati in queste lettere, per quanto minuziosi siano, non sono banali perché ci danno nettissime indicazioni sull'indole della scrivente. Se il volume doveva essere pubblicato a loro rischio e pericolo, era necessario che la sorella che conduceva le trattative fosse a conoscenza dei vari tipi di caratteri e dei vari formati dei libri. Aveva dunque comprato un piccolo volume che conteneva tutte le informazioni attinenti alla tipografia. Non voleva informazioni vaghe, non si fidava degli altri quando era in grado di decidere personalmente, pur avendo piena fiducia nella probità dei signori Aylott & Jones. La preoccupazione di accertarne il rischio prima di imbarcarsi nell'impresa e il pronto pagamento dell'importo richiesto ancor prima che assumesse forma di debito indicano un carattere autonomo e indipendente. Seppe anche controllarsi a perfezione durante tutto il tempo in cui il volume di versi fu in preparazione e poi, mentre era in corso di stampa, non scrisse una sola parola in proposito. Nessuno all'infuori della stretta cerchia familiare fu messo al corrente. Ho avuto fra le mani alcune delle lettere indirizzate da lei alla sua antica maestra Miss Wooler. La corrispondenza tra loro aveva avuto inizio già da qualche tempo. Convinta come sono che, quando è possibile, sia meglio lasciare che Charlotte Bronte si esprima in prima persona, ne stralcerò alcuni passi indicandone la data. 30 gennaio 1846. Cara Miss Fuller, non mi sono recata recentemente a far visita a X. L'ultima volta fu più di un anno fa, però ricevo frequentemente notizie da E, che non ha mancato di informarmi del suo viaggio fatto nel Worcestershire. ma non è stata in condizioni di darmi il suo indirizzo esatto. Se lo avessi avuto le avrei scritto prima d'ora. Penso che lei si sia chiesta come andavano le cose quando ha avuto notizia del crollo delle azioni della ferrovia. Sono lieta a comunicarle, dopo le sue gentili domande, che il nostro piccolo capitale è per il momento intatto. La York e Midland è, come lei dice, un'ottima linea ferroviaria. Tuttavia, le confesso che per parte mia vorrei essere prudente. Non penso che anche le migliori reti continueranno a pagare per molti anni gli attuali dividendi e ero molto propensa a vendere le nostre azioni prima che fosse troppo tardi e mettere il ricavato al sicuro in un qualche più solido, anche se meno redditizio, investimento. Ma non riesco a indurre le mie sorelle a considerare la cosa dal mio punto di vista e sinceramente preferisco correre il rischio di una perdita piuttosto che ferire i sentimenti di Emily agendo contro le sue opinioni. Ella se ne è occupata in modo assai abile in mio favore mentre mi trovavo a Bruxelles, impedita dalla lontananza di badare ai miei interessi, perciò le lascerò dirigere le cose anche al presente e accetterò senz'altro le conseguenze. Disinteressata ed energica ella certamente lo è, e anche se non è così esperta e duttile da lasciarsi convincere quanto vorrei, devo rammentarmi che la perfezione non è toccata in sorte all'umanità, e finché possiamo considerare coloro che ci sono care e a cui siamo legate da stretti vincoli di sangue con una profonda e incrollabile stima, ha poca importanza se alcune volte ci contrariano con prese di posizione che a noi sembrano poco ragionevoli e caparbie. Lei, cara Miss Fuller, conosce tanto quanto me il valore dell'affetto che lega l'una all'altra le sorelle. Non vi è altro di simile al mondo, credo. Quando esse sono quasi coetanee e simili per educazione, gusti e modi di sentire. Mi chiede di Bronwell. Non si preoccupa minimamente di cercare un impiego e incomincio a pensare che si sia ridotto in condizioni tali da essere incapace di occupare qualsiasi posizione rispettabile, e anche se avesse denaro a disposizione lo spenderebbe unicamente a suo danno. Temo che la facoltà di autocontrollo sia praticamente annientata in lui. Mi chiede se io non pensi che gli uomini siano esseri strani. Oh, lo credo davvero. L'ho spesso pensato, come ho pensato spesso che il modo di educarli sia strano. Non sono sufficientemente protetti dalle tentazioni. Le ragazze sono protette come se fossero qualcosa di estremamente fragile e insulso, mentre i maschi sono lasciati liberi come se proprio loro, fra tutti gli esseri viventi, fossero i più saggi e i meno soggetti a venire fuorviati. Sono contenta che Bromsgrove le piaccia, ma credo proprio che esistano pochi luoghi che non incontrerebbero la sua approvazione con Mrs. M come compagna. Provo sempre un intenso piacere quando sento che lei è pienamente soddisfatta, perché ciò prova che esiste una giustizia anche in questo mondo. In gioventù, nel fiore degli anni, lei ha lavorato duramente, si è negata ogni piacere, quasi ogni riposo. Ora è libera e ha ancora, lo spero, molti anni di vigorosa salute per godere le soddisfazioni a sua portata. Inoltre io ho un altro egoistico motivo per esserne lieta. Vedo che anche una donna sola, tra virgolette, può essere felice tanto quanto una sposa amata e una madre orgogliosa. Questo mi dà una vera gioia. Ho molto riflettuto sull'esistenza che attende ogni giorno sia le donne non sposate, sia quelle che non hanno alcuna probabilità di sposarsi, e sono giunta alla conclusione che non esiste su questa terra un tipo più rispettabile della donna non sposata che si fa strada nel mondo quietamente, con perseveranza, senza l'aiuto di un marito o di un fratello, e avendo raggiunto l'età di 45 anni o più, si mantiene in pieno possesso di una mente bene equilibrata, aperta al godimento dei semplici piaceri, capace della forza necessaria per sopportare le inevitabili pene, atta a simpatizzare con le pene altrui, desiderosa di alleviare i bisognosi secondo le proprie possibilità. Durante il tempo in cui le trattative con i signori Aylott e Co. si svolgevano, Charlotte andò ospite della sua antica compagna di scuola, con la quale aveva uno strettissimo rapporto di fiducia. Ma né allora né in seguito le fece parola della pubblicazione delle poesie. Nonostante ciò, la ragazza sospettò che le sorelle stessero scrivendo e fu confermata in questa idea quando in una delle sue visite a Haworth essa vide Anna con un numero di Chambers Journal, intenta a leggere, mentre un mite sorriso di soddisfazione le illuminava il placido volto. «Cosa c'è?» chiese l'amica. «Perché sorridi?» «Semplicemente perché vedo che hanno pubblicato una delle mie poesie», fu la quieta risposta, e sull'argomento non fu detto altro. A questa amica Charlotte indirizzò la seguente lettera. 5 marzo 1846. Sono giunta a casa ieri, un po' dopo le 14, sana e salva. Ho trovato papà in ottime condizioni, la vista sempre allo stesso punto. Emily e Anne erano andate a Keighley per incontrarmi. Sfortunatamente ero tornata per la strada vecchia, mentre loro avevano presa quella nuova e ci siamo mancate. Non furono di ritorno a casa se non dopo le 16:30 e il pesante acquazzone che cade di pomeriggio le sorprese. Mi rincresce dirti che a causa di questo Anne ha preso un leggero raffreddore, ma spero che si rimetterà presto. Papà è stato molto sollevato da quanto gli ho detto circa il rapporto di Mr. C e lietissimo nel sentire dell'esperienza della vecchia Mrs. E. Ma mi sono accorta che ha accolto con piacere l'idea di rimandare l'operazione di alcuni mesi. Entrai nella camera dove era Bronwell per parlargli. Circa un'ora dopo il mio arrivo a casa mi costò un vero sforzo rivolgermi a lui. Avrei potuto risparmiarmi la fatica di farlo, visto che non mi prestò la minima attenzione. Non rispose alcunché, era istupidito. I miei timori non sono stati vani. Mi dicono che ha ottenuto una sovrana mentre ero via, con la scusa di un urgente debito da pagare, è uscito e l'ha immediatamente cambiata in un'osteria e la spesa come era da aspettarsi. Ormai è irrecuperabile. Non è che è troppo vero. Nelle sue presenti condizioni è quasi impossibile rimanere nella camera in cui si trova. Cosa ci tenga in serbo il futuro, io non lo so. 31 marzo 1846. La nostra povera vecchia domestica Tabby ha avuto una specie di ictus una quindicina di giorni fa, ma ora si è quasi completamente rimessa. Marta, la ragazza che abbiamo preso per assistere Tabby e che ancora oggi rimane fedele persona di servizio alla canonica, sta poco bene per un gonfiore al ginocchio, così ha dovuto andare a casa. Temo che ci vorrà un bel po' di tempo prima che sia nuovamente in condizione di lavorare. Ho ricevuto il numero del record che hai mandato. Ho letto la lettera di Daubigné. È uno scritto intelligente. Quello che dice del cattolicesimo è ottimo. La parte che riguarda l'alleanza evangelica non mi sembra granché praticabile, ma certamente il predicare l'unità tra tutti i cristiani, piuttosto che inculcare l'intolleranza e l'odio, mi sembra in accordo con lo spirito del Vangelo. Sono veramente contenta di essermi recata a quando l'ho fatto, poiché il cambiamento d'aria mi ha fatto bene alla salute e mi ha rinvigorita. E tu come tiri avanti? Anelo al mite sud e ai venti dell'ovest. Grazie a Dio, papà continua abbastanza bene, benché troppo spesso la disgraziata condotta di Bruno e lo getti nello sconforto. Non c'è da aspettarsi alcun mutamento se non per il peggio. Nel frattempo, la stampa del volume di versi procedeva senza intoppi. Dopo una serie di consultazioni e di deliberazioni, le sorelle erano giunte alla decisione di correggere le bozze personalmente. Fino allo scorso 28 marzo, gli editori si erano rivolti alle sorelle indirizzandosi a Mr. C. Bronte. Ma in seguito a un disguido, Charlotte chiese ai signori Aylott e Co. di indirizzare da allora in poi le loro comunicazioni a Miss Bronte e diede il suo vero recapito. Lasciava implicitamente intendere che non trattava per proprio conto, ma quale agente degli autori C. E. E. A. Bell, e in una nota del 6 aprile fa una proposta a loro nome di un lavoro che essi, tra virgolette, stanno preparando per darlo alle stampe, consistente in 3 distinti racconti, senza alcun nesso tra di loro, che possono essere pubblicati in un unico volume o separatamente. I 3 volumi avrebbero avuto le consuete dimensioni di un unico romanzo. Starebbe agli editori scegliere in proposito. Aggiunge che gli autori non intendono pubblicare i 3 racconti a proprie spese, hanno incaricato lei di chiedere ai signori Aylott e Co. se sono disposti a stamparli per proprio conto, naturalmente dopo aver debitamente esaminato i manoscritti per accertarsi che si permettano di prevederne il successo. Gli editori risposero prontamente, come possiamo desumere dalla lettera di Charlotte in data 11 aprile. Vengo a ringraziarli in nome di C. E. E. A. Bell per la loro cortese offerta di consulenza, della quale mi varrò per chieder loro precisazioni su 3 o 4 punti. È evidente che gli scrittori sconosciuti devono misurarsi con grandi difficoltà prima di riuscire a mettere le proprie opere sotto gli occhi del pubblico. Sono loro in grado di suggerirmi un modo per ovviare a tali difficoltà? Per esempio, pensando al caso che ho loro sottoposto, qual è la forma che rende più probabile l'accettazione di un lavoro di fantasia da parte di un editore? Offerto come un insieme in tre volumi oppure come racconti da pubblicarsi separatamente o come contributo a una qualche rivista? Quali sono gli editori da considerare più facilmente propensi ad accettare una di queste proposte? Può bastare scrivere direttamente a un editore o non sarebbe possibile sollecitare un'intervista personale? La loro opinione e il loro consiglio su questo o su qualsiasi altro punto suggerito dalla loro esperienza sarebbe da noi considerato come un vero favore. Dal tenore di questa corrispondenza è evidente che credeva fermamente nella probità e nella sincerità dell'impresa editoriale con cui trattava in questa sua prima avventura letteraria, per cui si conformò al suggerimento che gliene veniva. La pubblicazione delle poesie non fu tirata esageratamente per le lunghe. Il 20 aprile scrive ai signori Eilot e Co. di farle avere tre volumetti e di consigliarle i recensori ai quali altre copie dovrebbero essere inviate. La lettera che segue illustra le idee delle tre ragazze su quali fossero i periodici o le altre fonti di informazione che guidavano l'opinione pubblica. Le poesie siano accuratamente rilegate in tessuto. Abbiate la bontà di inviare al più presto copie e annunci pubblicitari a tutti i periodici qui sotto elencati: Colburn News Monthly Magazine, Bentley's Magazine, Hood's Magazine, Blackwood's Magazine, Tate's Edinburgh Magazine, The Edinburgh Review, The Dublin University Magazine. Anche i giornali Daily News e Britannia. Nel caso vi siano altri periodici ai quali siete soliti inviare copie dei lavori da voi pubblicati, includeteli nell'elenco. Penso che quelli che ho indicato siano sufficienti per una buona propaganda. I signori Eilot suggerirono allora di inviare copie e annunci pubblicitari anche all'Ateneum, alla Gazzetta Letteraria e a Critic e al Times. Ma avendoci ripensato, Miss Bronte rispose che i periodici da lei menzionati le sembravano sufficienti per il momento, visto che gli autori non desideravano spendere più di 2 sterline per la propaganda e ritenevano che il successo di un lavoro letterario dipendesse più dall'accoglienza dei lettori e dall'attenzione dei periodici che non dall'insistenza della pubblicità. Nel caso che venga pubblicata una qualsiasi recensione sulle poesie, favorevole o no, i signori Eilot e Co. sono cortesemente pregati di comunicare il nome e il numero dei periodici su cui la raccolta viene menzionata, visto che il fatto potrebbe sfuggire all'intermediaria che non ha l'opportunità di vederli regolarmente, cosicché le critiche potrebbero sfuggirle. Se le poesie dovessero essere prese in considerazione favorevolmente, è mia intenzione stanziare una somma appropriata a farne più vasta propaganda. Se d'altra parte dovessero passare inosservate o essere condannate, penso che sarebbe assolutamente inutile insistere con gli annunci, visto che non vi è nulla sia nel titolo sia nel nome degli autori che possa attirare l'attenzione sia pur di una sola persona. Penso che il piccolo volume uscì su per giù verso la fine del maggio 1846 senza attirare l'attenzione. Nel poderoso mormorio della voce pubblica nessuno si accorse che 3 nuove voci avevano incominciato a parlare. Nel frattempo la vita quotidiana scorreva angosciosa per le 3 sorelle che, tutte prese dalla tremenda preoccupazione che rodeva loro il cuore, avevano probabilmente messo in secondo piano la loro carriera di scrittrici. Il 17 giugno Charlotte scrive: Branwell dichiara di non potere e di non voler fare alcunché per se stesso. Gli sono stati offerti buoni impieghi in cui, lavorando normalmente per una 15 giorni, avrebbe potuto ottenere l'assunzione definitiva, ma lui non vuol fare altro che bere e ridurci tutti alla disperazione. Nell'Ateneum del 4 luglio apparve una breve recensione delle poesie di C. E. A. Bell. La recensione attribuisce a Ellis, cioè Emily, il livello più alto della produzione dei 3 fratelli, tra virgolette, quali si suppone siano gli autori. Un bell'ingegno strano, dotato di una evidente forza d'ala, capace di raggiungere un'altezza che qui non ha tentato. Inoltre, dimostrando un'evidente forza di penetrazione, il recensore continua dicendo che le poesie di Ellis Bell portano l'impronta di una originalità che va oltre quella presente in questo volume. Carter Bell, cioè Charlotte, viene collocata a metà strada tra Ellis e Acton. Ma in questa recensione vi è poca cosa ormai che meriti di essere presa in considerazione. Possiamo immaginare con che interesse quelle righe furono lette nella canonica di Haworth e quanto le sorelle si siano sforzate di sviscerarne i motivi e farne tesoro come guida dei loro talenti. Raccomando di dare una particolare attenzione alla lettera di Charlotte in data 10 luglio 1846, riportata qui sotto. Poco importa chi sia stata scritta, ma il sano senso del dovere che vi si nota, di quel dovere di cui il divino nel collocarci nelle nostre famiglie ci investe, sembra meritare speciale considerazione in quelle circostanze. Vedo che ti trovi in un dilemma di natura difficile e peculiare. Due sentieri si aprono di fronte a te. In coscienza desideri scegliere quello giusto, anche se fosse più scabro, ripido e difficile, ma non sai quale sia il più giusto. Non sai decidere se il dovere e la religione ti impongano di uscire allo scoperto nel freddo mondo, vuoto di amicizie, e lì guadagnarti la vita grazie al duro lavoro di governante, privo di soddisfazioni, o se piuttosto non ti chiedano di rimanere dove ti trovi ora, in compagnia della tua vecchia madre, trascurando per il momento ogni prospettiva di personale indipendenza, accettando gli inevitabili inconvenienti, talvolta perfino delle privazioni. Posso benissimo immaginare come sia quasi impossibile per te decidere in proposito, perciò deciderò per te, o perlomeno ti dirò qual è la mia assoluta convinzione. Ti mostrerò onestamente come la situazione mi appare. Il giusto sentiero è quello che richiede il maggior sacrificio del proprio interesse, implicando il bene maggiore per gli altri, e questo sentiero, fermamente seguito, condurrà, io credo, in processo di tempo, alla prosperità e alla felicità. Benché all'inizio possa sembrare puntare esattamente in direzione contraria. Tua madre è vecchia e inferma. Le persone vecchie e inferme hanno ben poche fonti di felicità, meno ancora di quanto chi è relativamente giovane e sano possa concepire. Privarle di una di queste è pura crudeltà. Se tua madre è più tranquilla quando sei con lei, rimanile vicina. Se dovesse soffrire nell'essere lasciata da te, rimani con lei. Fin dove giunge la corta vista umana potrà sembrare contro il tuo vantaggio, né sarai lodata e ammirata per il fatto che ti fermi a casa per essere di conforto a tua madre, ma probabilmente la coscienza ti approverà. E se sarà così, rimani. Raccomando a te di fare quello che anch'io sto tentando. Il seguito di questa lettera può interessare la lettrice solamente in quanto contiene una perentoria rettifica negativa della voce che circolava del suo fidanzamento col curato di suo padre, proprio quello stesso curato col quale 8 anni più tardi si sposerà e che probabilmente fin da allora, benché lei non se ne rendesse conto, aveva incominciato a occuparsi di lei con lo stesso tenero e fedele sentimento quale Giacobbe usò per ottenere Rachele, ma altre persone probabilmente lo avevano notato. Rimangono ancora alcune sue comunicazioni riguardo le transazioni dei signori Bell con Mr. Aylott. Il 15 luglio scrive: «Visto che non sono giunte altre comunicazioni, immagino che per ora nessun altro commento sia stato pubblicato e che la richiesta non sia aumentata. Potrebbe favorirmi con una riga che mi informi quante copie sono state vendute a tutt'oggi?» «Ben poche, temo», poiché 3 giorni più tardi ella scrive: «I signori Bell mi incaricano di ringraziarla per quanto lei suggerisce circa la propaganda. Essi sono d'accordo con lei che, vista la stagione sfavorevole, è meglio deferire l'operazione. Sono obbligata per l'informazione a riguardo delle copie vendute». Il 23 luglio scrive ai signori Aylott: «I signori Bell sarebbero grati di spedire da Londra le righe qui a Cluse». È la risposta alla missiva inoltrata da lei che conteneva la richiesta dei loro autografi da parte di una persona che dichiara di aver letto e ammirato le loro poesie. Penso di avere fatto sapere in antecedenza che i signori Bell per ora desiderano rimanere in incognita. Questa è la ragione per cui desiderano che la loro risposta venga spedita da Londra, piuttosto che inviarla direttamente, evitando così di dare una qualche indicazione circa il luogo dove risiedono per mezzo del timbro postale. E scrive nuovamente in settembre: «Siccome il lavoro non ha ottenuto alcuna ulteriore attenzione da altri periodici, suppongo che la richiesta non sia aumentata granché». Nella nota biografica che più tardi Charlotte scriverà sulle sorelle, leggiamo quanto segue circa il fallimento delle modeste speranze riposte in quella loro prima pubblicazione. «Il libro fu stampato, e a malapena conosciuto, e le poesie di Alice Bell sono quanto in esso merita di essere letto. La ferma convinzione che avevo e che ho circa il valore di questi versi non ha, devo ammetterlo, avuto la conferma di una critica favorevole, ma nonostante ciò non cambio parere in proposito. Il primo volume termina qui, leggiamo un paio di note interessanti. Fu a causa del racconto del licenziamento di Bronwell e della sua conseguente rovina che Elizabeth Gaskell fu accusata di diffamazione dalla signora Robinson, cioè l'amante di Bronwell, e fu costretta a ritirare la biografia di Charlotte Bronte e a ripubblicarla in edizione riveduta e corretta. Non è più possibile ora stabilire quello che accadde veramente, né quanta responsabilità effettivamente ebbe nella rovina di Bronwell la signora Robinson. Dopo la morte del marito, ella si risposò con Sir Edward Scott. Si capisce dunque la sua preoccupazione di proteggere la propria reputazione. I tre romanzi o racconti di cui Charlotte chiedeva la pubblicazione in un unico volume o separatamente nel corso della sua lettera sono The Professor, ossia una versione primitiva di Villette, scritto da Charlotte, Cime tempestose di Emily e Agnes Grey di Anne. Fine del primo volume.